Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Uno dei nemici della salute più sottovalutati ha un nome che è tutto un programma: radon. Il radon è un gas nobile radioattivo, uno dei primi elementi radioattivi ad essere scoperti, che risale in superficie dal sottosuolo, dove si sviluppa se è presente dell'uranio, di cui è uno dei prodotti di decadimento. In media il 50% delle radiazioni ionizzanti che assorbiamo nel corso di un anno è riconducibile al radon. L'aspetto più problematico però è che il radon è un gas molto pesante, perciò negli ambienti chiusi tende ad accumularsi ed è un potentissimo cancerogeno del sistema respiratorio. In Italia è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta. Allora vale senz'altro la pena di tornare su questo tema per ricordare come difenderci da questo rischio per la salute molto sottovalutato. Ne parliamo con Luca Bidinelli, cofondatore di R-Sense, startup, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sensori, apparati a basso costo per tenere sotto controllo la concentrazione del radon. Buonasera Bidinelli. Buonasera. Allora, senta, intanto ci dica più o meno su 100 case, non so se parliamo dell'Italia, quante hanno indicativamente un problema di radon? Ma guardi, sull'Italia si possono stimare circa una decina, quindicina di case, è comunque un dato abbastanza aggregato, però ogni 100 poco conosciuto come media, quindi una roba piuttosto elevata. Ecco perché dicevamo è un prodotto del decadimento dell'uranio, e tanti non lo sanno, ma l'uranio è estremamente diffuso. Magari è difficile trovarne grandi concentrazioni, ma è estremamente diffuso, ne sono piene un sacco di rocce e il terreno su cui camminiamo, l'acqua del mare, no? Assolutamente, assolutamente. Ecco, ma le volevo chiedere quanto cambia la situazione da casa a casa, o su che scala geografica cambiano le cose, cioè se la casa di fianco non ha un problema di radon io posso stare tranquillo, come funziona? Ma allora, secondo me ci sono da considerare due fattori. Il primo è legato alla tipologia di terreno e quindi all'area specifica. Ci sono aree ad elevata concentrazione di radon nel terreno, area più bassa. Per dirne una, nel Lazio la concentrazione media è molto elevata, in Emilia Romagna ad esempio è molto più bassa. Pianura e zona invece vulcanica, insomma. Esatto. Il secondo aspetto invece è proprio legato al rapporto tra la casa e il terreno. Quindi una casa ben isolata chiaramente fa entrare meno radon, e in questo caso anche la casa a fianco, se non è ben isolata, chiaramente avrà un contributo legato al cattivo isolamento, più il contributo legato al fatto che la casa di fianco, non facendo penetrare il radon all'interno, aumenterà in sostanza la percentuale di questo gas che perché entra. Da qualche parte questo gas deve sfuggire. Ecco, lei diceva una casa ben isolata avrà meno problemi. Ben isolata se è ben isolata dal radon, perché mi sembra di aver capito che al contrario le case ben isolate dal punto di vista termico, proprio perché sono a tenuta stagna, hanno più problemi di radon. Esatto, nel momento in cui il radon è entrato, se la casa è molto ventilata con le finestre aperte, il radon farà presto riuscire. Se è molto ben isolata, rimane lì dentro. A questo punto appuriamo appunto di aver un problema di concentrazione eccessiva di radon in casa. Quali sono i possibili interventi o i comportamenti che bisogna tenere? Allora, anche in questo caso io mi riferirei a tre, diciamo, situazioni generali. La prima è quella in cui appuriamo che c'è una bassissima concentrazione o comunque non rilevante. In questo caso aprire le finestre, ricambiare l'aria in maniera naturale con una certa frequenza può sicuramente aiutare comunque a tenerlo il più basso possibile. Il secondo aspetto è quando abbiamo una concentrazione mediamente alta, ma non altissima. Che vuol dire? Ci dica un numero, anche se forse significherà poco per noi per tutti. Per intenderci, dai 500 ai 2000 becquerel, okay, al cubo, diciamo così. E in questo caso l'installazione di un sistema di ventilazione forzata può sicuramente aiutare. C'è un sistema che ricambia costantemente l'aria 24 ore su 24, possibilmente non buttando via il calore. Esattamente, okay. Esattamente. O nel caso in cui sia in un qualche modo connessa dei sistemi di valutazione della qualità, la ricambia solo nel momento in cui ci sono delle persone, solo nel momento in cui la qualità dell'aria si abbassa. Terzo caso, caso estremo, cioè invasione di gas radon. Nel terzo caso, non si scappa, nel senso che bisogna affrontare degli interventi di tipo strutturale. E qui le spese sono sicuramente maggiori, però sono interventi che riescono ad abbassare in maniera determinata. Ci fa un esempio? Ma ad esempio l'installazione di sistemi di depressurizzazione o che sono dei tubi piantati nel terreno praticamente che fanno sfuggire, no? Che danno una via di sfogo. Esatto, sì, possiamo assolutamente dire così. oppure anche, vabbè, nel caso di nuove costruzioni si possono installare degli igloo che creano una sorta di cuscinetto d'aria sotto la casa, per cui in questo caso o anche di ristrutturazione, una specie di vespaio, insomma, esatto, un vespaio, o comunque diciamo cambiare, inserire delle barriere che fanno, sì, proprio isolamento e quindi non consentono al gas di penetrare all'interno dell'abitazione. Grazie Bidinelli. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.